prova ad amare le rette parallele orizzontali, assomigliando a bestie ed animali. Imparerò ad amare le rette parallele e non pretenderò che giungano al confine insieme. Imparerò ad amare le rette parallele orizzontali, assomigliando a bestie ed animali. Imparerò ad amare le rette parallele e non pretenderò che giungano al confine insieme. I miei dubbi sono piccoli e borghesi. Sono mesi che mi dici siamo solo buoni amici. Che ne dici di una storia senza fili né legami? Io lo so che tu mi ami, io lo stesso, ma però tu non sei il solo. Imparerò ad amare, imparerò ad amare le rette parallele, rette parallele, assomigliando a bestie ed animali. E non pretenderò che giungano al confine insieme. Io ti risponderei che a star da solo sarei come un Aldo Moro nella foto con il quotidiano in mano. Eppure questa mia deriva scettica mi limita e solletica come una mano morta sulla natica. Imparerò ad amare le rette parallele orizzontali, assomigliando a bestie ed animali. Imparerò ad amare le rette parallele e non pretenderò che giungano al confine insieme. Imparerò ad amare le rette parallele orizzontali, assomigliando a bestie ed animali. Imparerò ad amare le rette parallele e non pretenderò che giungano al confine insieme. Imparerò ad amare le rette parallele orizzontali, assomigliando a bestie ed animali. Imparerò ad amare le rette parallele e non pretenderò che giungano al confine insieme. Che giungano al confine.